Noi dobbiamo prendere sul serio ciò che leggiamo nella parola di Dio e per avere questo ragionevole atteggiamento dobbiamo considerare ogni parola nel suo contesto storico, culturale e linguistico. Diversamente per noi saranno solo parole senza senso. Inoltre, vi è un altro atteggiamento indispensabile nei confronti della parola di Dio perché essa sia efficace e porti quel frutto per la quale Dio l'ha data, cioè ritenere che le parole possano avere più significati. Dobbiamo ricordarci che il Dio della parola ha comunicato con noi utilizzando dei termini che per lo più appartengono al linguaggio umano comune a tutti, perciò per definire se stesso e le verità spirituali. Egli ha dovuto usare gli stessi termini che si adoperano per le cose umane e temporanee. Quando Gesù afferma di essere la porta, è evidente che usa un termine che ci fa pensare subito a quel varco, aperto in un muro per crearvi un passaggio. Ma se noi ci limitassimo a vedere solo questo aspetto, saremmo condannati a rimanere per sempre nell'ignoranza in merito alla conoscenza di Cristo Gesù. Così, vi è un termine nella parola di Dio che subito ci induce a pensare al suo significato immediato, ma nasconde un altro aspetto ben più grande e significativo, cioè il termine giusto. Questo termine, che si trova centinaia di volte nelle Scritture e nell'Antico Testamento, si riferisce a colui che cammina secondo i comandamenti dell'Eterno. Nel Nuovo Testamento è riferito a colui che ha posto fede in Cristo ed è stato così giustificato da tutte le colpe. Ma vi è un altro aspetto non sempre preso in considerazione che sfugge al lettore impreparato della parola di Dio, ed è il termine giusto, riferito a Gesù Cristo. Per qualcuno un simile accostamento potrebbe anche sembrare insignificante, ma calandoci nella cultura ebraica, prendere in esame un simile termine nel suo contesto rivela aspetti impensabili e verità che inducono chi teme Dio ad adorarlo per la sua autorivelazione. E è vero che le nostre parole non sono sufficienti per spiegare Dio, ma sono comunque in grado di farci comprendere l'aspetto umano della divinità di Israele. Se non fosse così, la rivelazione di Dio non potrebbe essere tale. Il giusto dunque è colui che compie la volontà di Dio, ma prenderemo in esame il termine giusto quando è riferito immancabilmente a Cristo Gesù per rendere maggiormente sicura la fede del credente che Gesù Cristo è il tema principale di tutta la Scrittura. Innanzitutto anche l'Apostolo Giovanni definisce Gesù Cristo il giusto nella sua prima lettera. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. 1 Giovanni 2. Alcuni commentatori trovano inaspettato il termine giusto in questa proposizione, ma probabilmente non hanno compreso che Giovanni non fa che mettere in evidenza un aggettivo sostantivato attribuito a Cristo nell'Antico Testamento. Il Salmo 72 rivela meravigliose verità, e leggendolo, se si tiene presente che si sta parlando di Cristo, si rimane sconcertati. O Dio, dai tuoi giudizi al re e la tua giustizia al figlio del re. 2. Ed egli giudicherà il tuo popolo con giustizia e i tuoi afflitti con rettitudine. 3. I monti porteranno pace al popolo e colle giustizia. 4. Egli farà giustizia agli afflitti del popolo, salverà i figli del bisognoso e schiaccerà l'oppressore. 5. Essi ti temeranno finché dureranno il sole e la luna, per tutte le generazioni. 6. Egli scenderà come pioggia sull'erba falciata, come un acquazzone che annaffia la terra. 7. Nei suoi giorni il giusto fiorirà, e vi sarà abbondanza di pace finché non vi sia più luna. 8. Egli regnerà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra. 9. Gli abitanti del deserto si inchineranno davanti. 10. I re di Tarshish e delle isole gli pagheranno il tributo, i re di Sheba e di Saba gli offriranno doni. 11. Sì, tutti i re lo adoreranno e tutte le nazioni lo serviranno. 12. Poiché egli libererà il bisognoso che grida e il misero che non ha chi lo aiuti. 13. Egli avrà compassione del debole e del bisognoso e salverà la loro vita dall'oppressione e dalla violenza, e il loro sangue sarà prezioso davanti a lui. 15. Ed egli vivrà e gli sarà dato l'oro di Sheba, si pregherà per lui del continuo e sarà benedetto tutto il giorno. 17. Il suo nome durerà in eterno, il suo nome sarà propagato finché vi sarà il sole, e tutte le nazioni saranno benedette in lui e lo proclameranno beato. Salmo 73. È evidente che il Salmo è una supplica fiduciosa per la venuta di un re che regnerà con giustizia e pace a favore degli oppressi e di un dominio che si estenderà su molte nazioni da un mare all'altro. Ma ad un tratto, pur riferendosi al re, balza all'occhio che il giusto non è più solo un essere umano. Perché si dice che egli verrà adorato, si pregherà per lui del continuo, tutte le nazioni saranno benedette in lui e lo proclameranno beato. Se chi legge simili preghiere e speranze non rimane scioccato, significa che non ha compreso la mentalità ebraica. Non vi è nessun dubbio che gli israeliti dovevano adorare solo Yahweh, cioè la loro divinità, e che a lui solo si doveva dare il culto. È vero che gli ebrei non mantennero questo obiettivo e che spesse volte adoravano altri dei e persone, ma in questo salmo si parla di qualcuno al quale si esprimerà un'adorazione giusta e lecita. Come conciliava l'ebreo l'adorazione al suo Dio e quella data ad un altro? È molto difficile da comprendere, eppure tutto era scritto nella legge e nulla poteva essere cambiato. È molto probabile che gli ebrei avessero molti interrogativi sulla legge, ma accettavano tutto per fede. Questo spiega perché i discepoli di Gesù non capivano nulla di quello che stava succedendo davanti ai loro occhi e ciò che udivano con le loro orecchie, ma quando la persona dello Spirito Santo rivelò ai loro cuori e alle loro menti le verità di Dio, allora ogni apparente contraddizione trovava la sua spiegazione in Cristo Gesù. Gesù era il giusto delle Scritture, era colui alle quali tutte le nazioni si sarebbero rivolte, era il giusto che avrebbe benedetto il mondo intero, era l'uomo a quale tutti gli abitanti del mondo avrebbero rivolto del continuo le loro preghiere. Inoltre, in conformità ai libri dell'Antico Testamento, Gesù un giorno regnerà su tutta la terra. Egli sarà il re dei re, e tutti gli abitanti della terra, amici e nemici, si inchineranno davanti a lui. Questo è il giusto descritto nelle Scritture. Il giusto che sarà, sì, uomo, ma anche Dio. Nel corso dei secoli ci è chi ha negato l'umanità di Gesù o la sua divinità, ma tale atteggiamento o rinnega le evidenze descritte nei libri dell'Antico Testamento, oppure deve spiegare come sia possibile in una religione monoteista accettare l'adorazione a qualcuno che non sia Yahweh. I primi cristiani hanno risolto questo problema perché per loro Cristo Gesù era ed è Yahweh stesso. Anche Giacomo si riferisce a Gesù con il termine giusto, anche se non lo dice espressamente. Rivolgendosi ai ricchi dice: «Avete condannato e ucciso il giusto, che non vi oppone resistenza». Giacomo 5, 6. L'espressione di Giacomo mette in evidenza una caratteristica di Cristo, non opporsi al malvagio. In un mondo dove impera il male, dove il malvagio vede realizzati i suoi obiettivi, è veramente difficile accettare pienamente di non opporre resistenza a chi compie il male. Ma se il giusto si è lasciato crocifiggere nonostante abbia potuto liberarsi, non vi è altra soluzione che accettare la sovranità di Dio. Gesù è il giusto non solo perché non ha commesso nessun errore o torto, ma anche perché ha saputo rimettere ogni situazione nelle mani del Padre Celeste. Questo atteggiamento calato nella realtà della nostra vita, e soprattutto nel matrimonio dove le ingiustizie sono più frequenti, vuol dire che non bisogna farsi le proprie più o meno segrete vendette, o prendersi rivalse. Essere giusti nei rapporti con il prossimo significa lasciare a Dio il momento e il modo per liberarci dal male. Infine, il fatto che Gesù venga definito il giusto è una perla della fede cristiana. Spesso le abitudini nascondono delle bellissime verità. Infatti, chi ha il coraggio tra gli uomini di definirsi un giusto? Chi può sostenere di non aver mai commesso nessun errore? Ci vuole proprio un pazzo. E anche se qualcuno fosse normale e si dichiarasse giusto, nessuno ci crederebbe. Perché nessun uomo può esserlo, e se lo fosse, nel momento in cui lo afferma, non rimarrebbe più tale. Eppure Gesù sfidò i suoi contemporanei chiedendo se qualcuno poteva accusarlo di qualche torto. Gesù non solo visse come un uomo perfetto, ma egli era ed è perfetto, perché non solo è uomo, ma pure Dio. Dobbiamo dare alla parola giusto applicata a Gesù tutto il suo valore teologico e morale. Non è possibile dichiarare Cristo Gesù il giusto senza contemporaneamente confessare la sua deità. Diversamente, per coerenza, non si dovrebbe mai pronunciare simile espressione. Se Gesù non fosse stato giusto, morendo in croce per i peccati degli uomini, avrebbe dovuto morire a causa dei suoi peccati e non avrebbe potuto compiere l'opera di salvezza. Ma i cristiani da sempre credono che Gesù è morto in croce per riconciliare gli uomini a Dio. Non vi è alternativa. O Gesù è il giusto, o Dio è ingiusto a ritenere valido il sacrificio di Cristo. Per me Dio è giusto perché ha ritenuto il giusto, ingiusto, nel momento che portava i miei peccati. A Lui sia onore e gloria. Settembre 2005. Ellero.